sono le 13. GR24, il sole 24 ore. L'Europa c'è ancora o nuotiamo insieme o fondiamo insieme, dice Barroso, dal 2011 il controllo preventivo sui piani di bilancio. Obama punta sulle infrastrutture per vincere la crisi, un piano storico da 100 miliardi di dollari. Il porto e la droga, le piste nelle indagini sull'uccisione del sindaco di Pollica. Berlusconi convoca i suoi, dopo la cena di Arcore e il Quirinale, nessuna richiesta di incontri. Buona giornata dalla redazione, buona giornata da Anna Migliorati. Negli Stati Uniti, lo avete sentito, il presidente Barack Obama annuncia un piano storico con investimenti colossali sulle infrastrutture e la ricerca per uscire dalla crisi. In Europa, il presidente della Commissione Barroso, nel suo discorso sullo Stato dell'Unione, dice chi prevedeva la fine dell'Unione Europea per la crisi ha sbagliato, ma o nuotiamo insieme o affondiamo insieme. Questo il tema in primo piano oggi, America ed Europa di fronte alle scelte per un rilancio. Cominciamo allora dalle parole di Barroso. Those who predicted the demise of the European Union were proved wrong. The European institutions and the member states have demonstrated leadership. My message to each and every European is that you can trust the European Union to do what it takes. Queste dunque le parole di Barroso, le state sentendo, le avevamo già anticipate. L'Europa c'è ancora, sbagliato chi prevedeva diversamente. L'economia va meglio, dice anche Barroso, ma dobbiamo agire insieme. E in questa direzione è andata la decisione arrivata dall'Ecofin, la riunione dei ministri economici e finanziari che sono riuniti a Bruxelles e che ha dato il via libera all'introduzione in pratica dal prossimo anno del controllo preventivo delle manovre di bilancio, ed è arrivato il via libera anche alla vigilanza finanziaria. Una vicenda complessa, ma che in qualche modo è semplice: più controllo dell'Unione Europea sui singoli stati. Dico bene, Antonio Pollio Salimbeni, buongiorno da Bruxelles. Buongiorno a voi. Sì, naturalmente sembra semplice, naturalmente ci sono voluti mesi e mesi di negoziato duro per quanto riguarda la nuova formula della governance economica, cioè la possibilità, la necessità di mettere sotto il vaglio europeo prima i progetti di bilanci pubblici, prima che questi vengano effettivamente poi presentati nel concreto, nel dettaglio, e decisi dai vari parlamenti. E quindi in qualche modo un controllo più stretto nato dalle vicende della Grecia in avanti? Sì, l'obiettivo è quello di evitare casi Grecia. Naturalmente il semestre europeo, così si chiama qui in gergo comunitario, questa riforma di una parte del patto di stabilità prevede che in primavera i governi sottopongano a Bruxelles e all'Ecofin le grandi linee dei loro bilanci, naturalmente compresi gli obiettivi di deficit e debito. Poi ci sarà un lavoro di analisi e di valutazione e alla fine delle raccomandazioni che arriveranno paese per ogni paese arriveranno dal Consiglio europeo all'inizio dell'estate. Soltanto sulla base di questo confronto, per verificare la coerenza tra gli impegni di bilancio nazionali e gli impegni e le esigenze di stabilità finanziaria complessiva dell'Europa e dell'Eurozona, i governi e i parlamenti potranno poi decidere, naturalmente nel pieno rispetto della loro sovranità nazionale sui temi di bilancio. Ma in un'armonia maggiore nell'Unione Europea. Grazie ad Antonio Pollio Salimbeni. Questo dunque ha deciso questa mattina l'Europa, mentre dagli Stati Uniti è arrivato l'annuncio di una svolta diversa di Obama. Sentiamo. I want America to have the best infrastructure in the world. We used to have the best infrastructure. Riecheggia lo slogan Yes We Can nelle parole usate dal presidente degli Stati Uniti Barack Obama quando si rivolge all'America e, parlando ai suoi operai, li appella come i migliori al mondo. Ritorna il sogno americano nel piano di investimenti sulle infrastrutture da 50 miliardi di dollari presentato da Obama per far ripartire l'economia reale. Si costruiranno nuove strade, ferrovie e aeroporti. Sembra di risentire nel piano di Obama le parole di Roosevelt quando diceva: un'America prostrata dalla crisi più nera, abbiamo una lunga strada da fare, ma siamo sulla strada. but we are on the way. E questa è la ricetta che ha in sé il seme rooseveltiano, ma in tono minore, come ci spiega Massimo Teodori, professore di storia americana. Gli interventi di Roosevelt furono di portata straordinaria, nel senso che innanzitutto furono ribaltati per la prima volta dei canoni fondamentali della vita sociale economica americana con l'intervento massiccio dello Stato che mai c'era stato prima, quindi una rivoluzione molto profonda. Per tornare a Obama, il suo intervento e le misure che lui ha annunziato certamente vanno nella stessa direzione, ma sono di una portata assolutamente minore perché non incidono nella legislazione di fondo. Un progetto ambizioso, quello presentato ieri da Obama, una ricetta classica, dice Stefano Silvestri, presidente dell'Istituto Affari Internazionali. Non so se funzionerà naturalmente, però mi sembra che è una ricetta classica e che come tale dovrebbe avere qualche effetto. Ecco, uno degli effetti che ci si aspetta ha a che fare con il voto mid term sicuramente. Questo è evidente. Obama sta in forte calo di consensi e quindi ci sono tutte le ragioni per cercare in qualche maniera di riconquistare, almeno sul piano dell'economia, il voto dei propri elettori. Cristina Carpinelli, GR24, Il Sole 24 Ore. E a fotografare i dati sull'economia dell'economia è oggi l'Ocse. Il servizio tra poco non è ancora pronto, sentiamo invece come stanno allora le borse. Deborah Rosciani. Sì, buongiorno. Abbiamo un quadro piuttosto negativo questa mattina sui mercati finanziari europei per diverse ragioni. Abbiamo un calo di Parigi dell'1,23%, Francoforte perde lo 0,73%, Londra perde lo 0,8%, Milano più pesante perde l'1,36%. Cosa è successo? Che questa mattina ha pubblicato un articolo piuttosto interessante il Wall Street Journal, dove vengono espressi nuovi dubbi sulle modalità con cui sono stati condotti nei mesi passati gli stress test sulle banche europee. Secondo il quotidiano sono stati sottovalutati alcuni rischi a partire dall'ammontare dei titoli di Stato potenzialmente rischiosi detenuti in portafogli da alcuni istituti. Sotto il riflettore del quotidiano soprattutto una grande banca britannica, Barclays, e una grande banca francese, Crédit Agricole. Per fortuna non vengono citate banche italiane, ma queste indicazioni sono bastate appunto a far scendere pesantemente i listini. A Milano scendono soprattutto i titoli bancari, ma oggi particolarmente verrà tenuta sotto osservazione l'apertura delle contrattazioni a Wall Street, ieri chiuse per il Labor Day dopo l'annuncio del maxi piano di rilancio delle infrastrutture americane appunto da parte del presidente Barack Obama. E per ora è tutto. Grazie Deborah Rosciani. La politica italiana ora, perché dopo il vertice di Arcole tra Bossi e Berlusconi in Italia restano le tensioni con Gianfranco Fini. Tra meno di un'ora dovrebbero incontrarsi il vertice del PDL, ma una soluzione sembra ancora lontana. Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno, è così, sta vivendo una vera e propria accelerazione in queste ore il braccio di ferro tra Fini e il resto della coalizione di governo. Il vertice di ieri sera tra Berlusconi e Bossi ha sancito di fatto la rottura con l'ex leader di EN dopo il discorso di Mirabello. Le dichiarazioni di Fini spiegano in un comunicato Berlusconi e Bossi sono inaccettabili, le sue parole sono la chiara dimostrazione che svolge un ruolo di parte ostile alle forze di maggioranza e al governo, del tutto incompatibile con il ruolo super partes di Presidente della Camera. Andremo dal Capo dello Stato, annunciano i due leader, per chiedere le dimissioni di Fini. Dal Quirinale si fa però sapere che per il momento non è arrivata alcuna richiesta di incontro da parte del Premier. La situazione è in rapida trasformazione. Tra circa un'ora Berlusconi ne parlerà a Palazzo Grazioli con i vertici del suo partito. La strada appare comunque segnata, tornare al voto, ma in che tempi? La Lega spinge per un ricorso alle urne in pochi mesi, anche a novembre. Il Cavaliere frena spiegando che vuole che sia Fini a fare la prima mossa, che la crisi si manifesti ma a livello parlamentare. La richiesta di dimissioni, commenta intanto il finiano Bocchino, è in violazione con la Costituzione ed è una decisione politicamente inaccettabile. PDL e Lega ignorano le regole istituzionali, commentano dal Partito Democratico. E da Roma è tutto. Grazie, noi voltiamo pagina con le indagini sull'omicidio del sindaco di Pollica, Raffaella Calandra. Oggi a Pollica qualche saracinesca è stata riaperta dopo la serrata di ieri, ma nelle strade è una sola la domanda che tutti si fanno. Chi ha voluto la morte di Angelo Vassallo, il sindaco che ha trasformato questo borgo di pescatori in un noto centro turistico? Il giorno dopo il delitto, in attesa della fiaccolata di questa sera, fiori e messaggi vengono lasciati qua e là. Tutto il paese è morto con te, si legge su un volantino. Giovedì forse ci saranno i funerali dopo l'autopsia fissata per domani, necessaria per definire anche i proiettili che hanno trucidato il primo cittadino del comune cilentano, rimasto un'oasi felice con il suo mare trasparente, il piano regolatore che impedisce ogni nuova costruzione e un porto che ha visto attraccare barche sempre più importanti. E sempre di più sembrano condurre qui le prime indagini del delitto, agli appalti milionari del porto, ma anche alle frequentazioni dei locali del lungomare. Con l'arrivo di migliaia di turisti cominciava infatti ad esserci puzza pure di droga. E quest'estate Vassallo aveva personalmente raccomandato vigilanza ai gestori dei locali. Aveva mandato delle lettere anche al comando dei carabinieri, ma senza risposta, rivela il fratello Claudio, secondo cui il sindaco temeva collusioni anche di alcune forze dell'ordine con personaggi poco raccomandabili. Ma anche di tutto questo torneremo a parlare tra poco in Italia in Controluce. Grazie Raffaella Calandra, ti ritroveremo sì tra pochissimo, 13:30, una puntata speciale tutta dedicata a questa vicenda oggi di Italia in Controluce. Le 13:12 minuti, siamo quasi all'appuntamento con le notizie sul traffico. Prima però andiamo ancora a Roma, perché per il traffico questa mattina è stato in qualche modo tempo di bilancio. Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno. Aumenta il traffico ma diminuiscono le code. È un bilancio positivo quello sull'esodo estivo del 2010. Meno disagi ma soprattutto meno incidenti e meno morti su strade e autostrade italiane, a fronte di un numero comunque elevato di italiani che hanno continuato ad andare in massa verso le località di vacanza usando la propria autovettura. 35 milioni di persone su 45 giorni di esodo, un numero per tutti. Morti sulle autostrade nell'estate del 2010 sono stati il 28% in meno rispetto al 2009. Gli elementi che hanno contribuito a questo bilancio positivo, secondo l'ANAS, che appunto ha indetto questa mattina una conferenza stampa, maggiore informazione attraverso il calendario delle previsioni di traffico. Basti pensare che nel solo mese di agosto ci sono stati 2 milioni di contatti al sito dell'ANAS. E poi maggiore prudenza grazie all'aumento dei controlli delle forze dell'ordine, alle nuove norme del codice della strada e alle campagne di sensibilizzazione. Strade e autostrade hanno dunque retto bene nonostante l'aumentato flusso di automobili dovuti al fatto che molti italiani hanno scelto viaggi brevi e ripetuti. Più 13% di traffico sulla Salerno-Reggio Calabria con 1.790.000 transiti, giornata nera su tutta la rete sabato 7 agosto. Quanto ai cantieri aperti, sono stati 96 in tutta la rete autostradale, di cui solo 2 critici. E dalla sala operativa dell'ANAS è tutto. A voi la linea. 13:17 minuti, le principali notizie di oggi. L'Europa c'è ancora, parole del Presidente della Commissione Europea Barroso, che oggi ha pronunciato il discorso sullo Stato dell'Unione Europea. Notiamo insieme, affondiamo insieme, ha detto Barroso. Dal 2011 ci sarà il controllo preventivo sui piani di bilancio dei singoli paesi. Obama punta sulle infrastrutture per vincere la crisi. Il Presidente americano ha annunciato un piano storico di investimenti da 100 miliardi di dollari. Porto e droga, queste le piste nelle indagini sull'uccisione del sindaco di Pollica, una puntata speciale di Italia in Controluce alle 13:30. Berlusconi convoca i suoi dopo la cena di Arcore, intanto dal Quirinale una nota, per ora nessuna richiesta di incontri con il Presidente. E riprendiamo andando invece in Francia, dove oggi è sciopero generale. Come da copione, una Francia al rallentatore. Sì, lo sciopero generale proclamato oggi per protestare contro la riforma pensionistica di Nicolas Sarkozy sembra davvero funzionare. Solo 2 TGV, i mitici treni ad alta velocità su 5, sono in circolazione e certe linee ferroviarie che collegano Parigi alla periferia sono praticamente bloccate. Ai minimi delle loro attività perfino le 6 raffinerie francesi del gruppo Total. Ora sindacati e governo attendono di vedere quante persone scenderanno in piazza nelle manifestazioni previste in tutto il paese, concentrate per lo più nel pomeriggio. Nell'ultima prova di forza con Sarkozy lo scorso 24 di giugno erano state, secondo fonti sindacali, 2 milioni. L'obiettivo è stavolta superare questo livello. In ogni caso, ha detto minaccioso Bernard Thibault, segretario generale della CGT, la principale organizzazione dei lavoratori, se non ci ascolteranno prevediamo già un seguito a questa mobilitazione. Leonardo Martinelli, GR24, il Sole 24 Ore, Parigi. In Europa non c'è posto per il razzismo e la xenofobia, ha detto il presidente della Commissione europea, José Manuel Barroso, durante il suo discorso sullo Stato dell'Unione, di cui abbiamo già parlato. Riferendosi alla Francia, alla questione del Roma, ha aggiunto: su questioni così delicate tutti dobbiamo agire con sensibilità e non risvegliare i fantasmi del passato. I diritti umani non sono negoziabili, sono state sempre parole di Barroso, che si è riferito anche alla vicenda della nonna iraniana che rischia la lapidazione. Su questo anche il ministro italiano degli esteri Franco Frattini ha parlato questa mattina, Radio 24. Le relazioni diplomatiche con un paese come l'Iran sono necessarie anche per ottenere decisioni come quelle che vogliamo, ad esempio quella di graziare Sakineh, non solo non lapidarla, ma non ucciderla, risparmiarle la vita, ma certamente appelli di tipo emozionale non servono a salvare la vita di Sakineh, serve un impegno di tutta la comunità internazionale che continui, come si sta facendo, a richiedere con forza un gesto di clemenza. Venezia racconta la guerra in Iraq dal punto di vista dei reduci americani e delle loro difficoltà. Lo fa con un film italiano diretto dalla conduttrice inviata del TG1, Monica Maggioni. Una storia che ha incontrato nei suoi viaggi da inviata e che l'ha portata a incrociare storie su storie, vite su vite. World 54 di Monica Maggioni racconta le vite dei reduci americani dall'Iraq. È molto difficile fare i conti con queste storie. Per l'America è difficile sia in termini politici su larga scala, perché nel momento in cui queste guerre continuano e bisogna continuare a trovare persone da mandare al fronte, è chiaro che queste storie di questo tipo non sono una buona pubblicità. E poi è difficile perché c'è anche una ragione più profonda. Parlare di ferite fisiche è possibile, parlare di ferite psicologiche è già più complicato per tutti in generale, è ancora più complicato quando poi si vanno a toccare delle storie che diventano un po' l'anima nera di tutta una comunità. Su tutto i racconti di Chris, 25 anni, in patria lo aspettavano la depressione, la solitudine, un tentativo di suicidio, e senza congedo con onore non può accedere agli aiuti per finanziarsi l'università. I haven't been able to study anything. What I would like to study is medicine. I would like to... Non posso ancora studiare, ma vorrei diventare medico e lavorare nelle associazioni dei reduci per aiutare gli altri. Una figura che non esiste, dice, ma che il governo americano dovrebbe creare. Marta Cagnola, GR24 e Sole 24 Ore, Venezia. È stata dimessa Laura Salpietro, la donna che ha avuto complicazioni dopo la lite tra due medici in sala parto al Policlinico di Messina. La donna sta bene, per stare vicino al figlio potrà occupare una stanza nel reparto di terapia intensiva neonatale dello stesso ospedale. Le condizioni del piccolo sono migliorate, anche se la prognosi resta riservata. Il presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Boschi, ieri è intervenuto contro le speculazioni sull'allarmismo in Abruzzo. Ha parlato della possibilità di non pubblicare più online i dati sui terremoti. Alice Cason ha chiesto a Nicola Tullo, presidente dell'Ordine Geologi d'Abruzzo, se quella di Enzo Boschi è una buona idea. Guarda, io penso di no, che non sia corretto, non è corretto, perché chiaramente i dati sono indispensabili alla comunità scientifica. Se ci vengono a mancare questi dati non abbiamo proprio la base, le basi di riferimento. Io capisco pure lo sfogo di Boschi, perché dice ovviamente qui tutti sono diventati esperti e chiaramente chiunque legge questi dati li interpreta a modo suo. E infatti Boschi ha detto di voler limitare la consultazione dei dati consentendola solo agli esperti. Lei sarebbe d'accordo? Sarei pure d'accordo a non farlo vedere alla popolazione, diciamo, ai non esperti, però dobbiamo capire al contrario come potremmo noi accedere a questi dati per esserne certi di quello che sta succedendo. Il sindaco dell'Aquila Cialente parla di una fondata paura di un popolo stremato. Le scosse dell'ultima settimana preoccupano anche voi esperti? Allora guardi, è chiaro che c'è un incremento dell'attività sismica. Queste scosse si sentono perché sono abbastanza superficiali, sono dai 3 agli 8 chilometri e quindi si sentono. Ovviamente che cosa succede? Questo va a inserirsi in un territorio come quello, diciamo, aquilano, che è molto vicino, dove la gente è già scossa, è ovvio che la gente ha paura, la gente non ce la fa più. Italia quasi fanalino di coda tra i paesi OCSE sulle spese nell'istruzione. Il servizio di Giuliana Licini. L'Italia spende il 4,5% del PIL nelle istituzioni scolastiche, il dato più basso esclusa la Repubblica Slovacca. Non solo. Nel suo insieme la spesa pubblica nella scuola, includendo cioè i sussidi alle famiglie e i prestiti agli studenti, in Italia è pari al 9% della spesa pubblica totale. E questo è il livello più basso tra i paesi industrializzati. Le anomalie italiane nella scuola vedono peraltro salari dei docenti inferiori rispetto alla media OCSE, ma anche meno ore di insegnamento frontale. Gli studenti italiani invece sono dei veri staccanovisti e tra i 7 e i 14 anni stanno a scuola ben 8.200 ore. Solo i ragazzi israeliani fanno di più. E in tutte queste ore si dice che i nostri studenti, ad esempio, non imparano le lingue straniere, che le nostre scuole non li preparano abbastanza. È ancora vero, ma qualcosa si muove, come dimostra uno studio in quasi 500 scuole superiori in Lombardia, Molise, Marche, Puglia e Toscana. È stato realizzato dall'Ipsos per la Fondazione Interculture Telecom Italia ed è stato presentato oggi. Raffaele Pirola di Intercultura. Sembrerebbe proprio di sì, perché lo studio si chiama Eppur ci si muove, cioè nonostante tutte le difficoltà le lingue straniere sono sempre più diffuse, una scuola su quattro ha attivato l'insegnamento di materie come la matematica, la storia in lingua inglese, quindi questa è una novità che poi andrà a regime nei prossimi anni anche grazie alla riforma Gelmini, e in generale i presidi sembrano anche molto più favorevoli alle iniziative della mobilità studentesca, più devo dire nel contesto della classe intera che va all'estero per un periodo breve, ma cominciano anche a essere più favorevoli verso i singoli ragazzi che vanno a studiare un anno scolastico all'estero. Qualche perplessità in più emerge dai professori. Quindi, eppur si muove qualcosa nella scuola entro molti limiti. Certo, i limiti ci sono. Le 162 scuole sulle 500 quasi intervistate che segnalano di non aver aderito ai progetti di internazionalizzazione dicono che i problemi sono in primo luogo la mancanza di finanziamenti, in secondo luogo appunto un po' questa reticenza un pochino degli insegnanti che sono più preoccupati probabilmente di portare a casa a termine il programma, e poi spesso anche la scarsità di informazione e le procedure complicate per partecipare. Dopo il gol e l'assist contro l'Estonia, altra grande gioia per Antonio Cassano, che presto diventerà papà. L'attaccante barese con Rossi e Girardino guiderà stasera l'Italia nella seconda sfida valida per le qualificazioni a Euro 2012 contro le isole Faroe a Firenze. Stasera la nazionale gioca contro le Faroe, l'isola delle pecore. Diciamolo, un avversario non irresistibile di pastori, carpentieri e manovali, che però con Lippi ci fece soffrire non poco. Stasera l'aria è molto diversa, sia per Prandelli, sorta di buon papà che smussa qualsiasi angolo, sia per l'allegra effervescenza portata da Cassano, che in pochi mesi è diventato il figlio il prodigo del calcio italiano. Fant'Antonio è buono, è bravo, è leader e presto, grazie alla dolce Carolina, sarà anche uno splendido papà. È incredibile come in due mesi Cassano, bocciato come irrecuperabile, sia diventato il traino più sicuro del nostro calcio. Tutti ora lo adorano, perfino quei giornalisti che quando Lippi in Sudafrica disse che a casa di fenomeni non ce n'erano, non obiettarono la cosa più ovvia, che i peggiori li aveva portati proprio Marcello il presuntuoso. Ma adesso con Cassano la vita è meravigliosa. Speriamo che, coperto di troppi elogi, Fant'Antonio non si perda. Come noto, dai nemici ci si può difendere, dagli adulatori di professione invece non c'è scampo. Dario Ceccarelli, GR24 e Il Sole 24 Ore. Ricordate le contestatissime, chiacchieratissime scene girate dalla premier dame Carla Bruni sotto gli occhi del marito Sarkozy per il film di Woody Allen quest'estate a Parigi? Ebbene, potremmo non vederle mai. Le scene girate da Carla Bruni per l'ultimo film di Woody Allen potrebbero infatti essere tagliate al montaggio finale. Quanto trapela oggi, secondo alcuni siti informati, alcuni siti di spettacolo, il regista americano, secondo queste indiscrezioni, avrebbe già girato le stesse scene con un'altra attrice. Per girarle avrebbe aspettato la partenza in vacanza della Bruni. E con questo le 13:28 minuti ci fermiamo qui con questa edizione di GR24. La prossima alle 14 c'è Italia in controluce. Un saluto da Anna Migliorati, in regia Filippo Aureggi. Ancora una buona giornata. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.